Simone! Andiamo e andiamo, babbo! Oh, signor Battisio! Illu! No, no Illu! Abetto! Nominane da Sado, no! Nominane da Sado! E tu? E tu? Io, mi appena rientrato 10 minuti fa da fare la spesa. Io da te. Quindi hai speso? E tu? Aspetta vedere se c'è il signor Battisio. Signor Battisio, ci sei? Aspetta, to. Perché? Cosa, to? Perché? Cosa? Tu mi hai detto, aspetta. Ah, perché stavo rispondendo alla mia cognata. Ah, così è. Andave. Attenzione, signor Battisio! Ha detto che non fa. E poco fa ho incrociato a Battisio lì, ero al CAF, con la 25. Stavo facendo due chiacchiere. Oh, stava parlando. E allora, di persona, mi. Andave, andiamo bene, andiamo. Allora, siamo ancora rientrato. Sì, è rientrato. Così è. Allora, boh. Attenzione, signor Battisio! Ascolta, l'antenna che c'è tu, quella che ti ha fatto Luca, bene, vai, metti in sette, ricevi bene, trasmetti bene. L'hai sentita? Uno di stazionarie, andate e ritorno. Sì, ma dico, come ricezione, ci ricevi bene, trasmetti bene. Sì, tutto bene. Solo che quando c'è vento senti un po' del vento. Il QRM ci si solleva. Ho capito. Beh, non si può fare una cosa con la lenza magari, no? A poterla un po' più ferma. Oh, anzi, è meglio che si muova. Se no è catta. Ehi, fatela fare da Luca. Con un bel tubo. Ehi, adesso mi sa che lei compra le due canne a pesca. E facciamo l'antenna. Falle comprare a lui, che lui sa qual è. Ehi, ma già me l'ha detto, cosa ci vuole, va. Te la fai fare, ti fai fare la carica. Un bel pezzo di tubo di... tubo d'acqua, in plastica, in PVC. Beh, certo. Allo. E chi è? Batteria scarica. E chi ce l'ha? Buonasera, signor Battisio, chi ce l'ha la batteria scarica? Io, perché questo, qua. Cosa c'è? Televisore acceso? No, gli amatori sono dell'altro, penso. Ah, no, io non ce l'ho qua, acceso. Nel mio non stanno entrando. Oh, non so perché ancora lì entrano, non lo so. Io sono spostato, nulla da fare. Adesso mi sta caricando, vedo che si può controllare, se riesco a metterlo così. A caricare, caricando la bomba. Riprendi un attimo come tu carica batteria. Ehi, ok. Hai capito, Luca, ti conviene farti la va. Perché qua la vuoi mettere? Oh, signor Luca! Illu! Sono qua, allora? Ho detto, qua la vuoi mettere? Eia! Fai bene. Se la vai garigà, fai meglio, i problemi non ce ne sono. Sì, e beh. Perché non sento nessuno con questa antenna. Se non senti nessuno... ma magari è perché non c'è nessuno, mi. No, adesso c'è tipo c'era uno di produttore, poi c'è questo tipo che parla adesso, io non lo sento, poi c'era un altro, non lo sentivo. Non riceve, va bene qua per noi in zona, va più che bene, ma in distanza, tipo produttore se non va più bene. Ma che produttore ce lo sento basso anch'io, mi, non ti credi che arrivi voti, no? Vabbè. Voglio sapere avere più ricezione, vuoi fare qualche collegamento? Vabbè, se vuoi fare qualche collegamento, allora sì. Però se il coso come portatore, se no... Beh, ricevo meglio Alghero che portatore, sì. Allora già va bene, dai. Alghero ricevo forte, io, mi. E anch'io da casa, ho già entrato. porto dottore, se non si occupa cosa, ma arrivi più basso, ma arrivi. Ehi, forse perché magari la zona è negativa per te. Non penso che sia negativa. Senta, signor Tore, ci sei? Sì, signor Bacchi, siamo qua, siamo qua. Eccoci qua. Sono questi cavoli di radioamatori. Niente, l'ho sparato, va. E come mai? Ma non è che sei fuori frequenza, no, per caso? Io sono in frequenza, non sono fuori frequenza. È molto, molto abile, capito? No. Certo, a meno che non c'hai cosa inserito. E poi forse di entrani. Ma sembra strano, però. Infatti, adesso mi sono spostato. Li ho mandati fuori in campagna, adesso li ho mandati. Fuori in campagna andiamo. Ogni sera ci sono. E arrivano tutti sparati. E andiamo, boh. Io non intendo bannuda, non intendo. Se vuoi ascoltare devi andare 147, oh no, aspetta, non lo ricordo qui, aspetta che guardo, 145, 787. Sì, sì, sì, sì, no, io ho 525. E signor Marino non è inteso, no? No, no, senti, aspetta, un attimo. Tu senti questa perna che ogni poto? Oh, da me no. Da me è lontano, deve essere. Io non la sento, sono né vicino a te. No? Tu, non lo so. È già due volte si è affacciato. Quando stavo mettendo a posto la batteria. E vabbè, faccio quello che vuole. Non mi interessa nulla. Signor Marino, no, io non l'ho sentito, né visto né nulla, to. Ha finito di fare domeniche, quindi dovrebbe essere più libero. Ma deve essere bambinaio, perché c'ha, diciamo così, due lavori. E la mattina lavora presto, fino alle 11 qualcosa, 11 e mezza. Poi va a pranzo, si riposa un pochino, quando si sveglia riprende dove iniziare a lavorare, bambinaio. Sì. Fa il bambinaio, fa. Bambinaio, ci sei? Ma sei assentrato, c'è otto ore, c'è la chiesa, c'è otto ore di altri. Ehi, c'è otto ore, avanti la chiesa. Buonasera Marino, ben ascoltato. Visto la Ittore, che la voce del padrone era assente. Infatti, la voce del padrone era assente. C'era la voce del bambinaio. Andiamo bene, andiamo dopo, bobo. Cioè, il bambinaio a tempo pieno. Anche quello vuole fatto, to, anche quello vuole fatto. Oioioia. Andiamo a cosa stai ascoltando, Bacchì? Cosa stai ascoltando, Boccanzo? Stavo ascoltando su 145-787. Ho visto. Ho sentito a Luca da lontano. Luca, buonasera anche a lei. Devi mettere in posizione di fronte a Cristiano, se no non ti ascolto, avanti. Mi senti adesso? Penso sì, fiorellino, ti sento. Anche io ho fatto la traba, già li sento pure io. Si sente, no, a fondo scala. C'è Alghero, poi dall'altro paese, non so, sono da fuori, da Savona, Domenico era quello lì. Da Savona. Via, c'era Domenico da Savona, stavo usando il ripetitore di Monterasso. Io non li sento, sento a Walter, Salvatore, e gli altri no. In quale canale sei tu, perché? Per tu. Che frequenza c'hai, Luca? Io ho 145, 787. Dopo per tu, dai. Allora... Adesso mi sono spostato perché non sentivo a voi, li copre, gli splatter entrano addirittura. Avanti, dottor Marino. Andiamo, Bacchi, bobo, è un casotto, su da fare. Vero, sto, da posto? Non so, forse non c'è più nessuno. Ora sta dormendo, bobo. Andiamo, Marino. Ora dormendo. Oi oi, vai otto. Sto rimanendo la pasta al forno. Io ho senza fare la batteria, o è niente. Quella scarica cos'era? Lo sentite mai? Come? Non ho capito, quella scarica. Io come un ronzio. Un secondo durato. No, negativo, bacio. No, questo che raccoglie tutte le porcherie che sente in giro. Ah, beh, quello che c'è nel lettere. È portatile, questo qui è. Il Voxon. Ah, ho capito. Ehi, Tore, dormito ti sei? No, nulla da fare, non mi sono dormito. No. Io dormo la notte. Ah. Stiamo asciugando il cane. Tore, cosa stai facendo? La cosa, l'asciugatoio al cane? Tore! Oh, guarda la televisione, ascolta noi. Boh, io non ho capito, andiamo dove andiamo? Sì. È così. E così sia. Oh, adesso faccio questa mattina su. Tore, ma mi senti? Sì che ti ascolto, perché non ti ascolto? Rispondi, boh, rimane in bianco. Ti ho detto stamattina, cosa ci facevi di lassù? Aspetta un attimino, che sennò non sento bene. Ah, c'è la porta aperta, c'è. No, ho abbassato l'altra parte. Se no non ascoltavo a voi. E Laura, andiamo dove andiamo? Boh, boh, avanti, va qui. Ehi, così è. E il dottore è stanco perché era asparagi, ma lì, è andata asparagi, capito? È stanco. No, ho abbassato l'affare, se no non vi ascoltavo. Boh, neanche a Luca ascoltavi. Sì, ascolto a tutti e tre. Ascolto a tutti io, nel compreso. No, ho abbassato il volume dell'altro. Ah, capito. Il volume è abbassato. Oh yeah, andiamo bene, andiamo, Luca, avanti. Ehi, ehi, così andiamo un po'. Oh yeah, vabbè. Benzio, vabbè, sono curioso di là. No, non so se è al 10, ascolto. Però sentivo solo a Gianni, era Natalino, il boh. L'altro a Marco Conto, dai. L'altro non li sentivo. No, non ci sono passato a ascoltare là adesso. Nulla. Natalino torna sulla cresta dell'onda, Natalino, Sulla cresta dell'onda? E che sta entrando? Non ho sentito per niente, vabbè, da dove è lui è un po' più difficile ascoltarlo, in mezzo a tutte quelle case, in mezzo ai suo garraggio che vuoi. C'è in FM, Bacchi esce, in FM non disturba, in AM disturba. Ah, così è. Boh, andiamo bene, andiamo. È un casotto, ma chi è? È un casotto, venuto dal vanno, Tore sempre come al solito. Tore, ma stamattina cosa ci facevi di lassù? Di lassù dove? Cosa ne so? Se non lo dici tu lo vedi. Io veramente ero a casa a Somanzano. Sono uscito a portare il cane, mi sono fatto un giro grande. Oh, camion, ti stavo chiamando, oh, Tore, non intendo questa leccina. Bobo, anche lui c'è la malattia dei ricchi, vero Bacchi? Adesso, l'hai visto, Marie, che vendono quelle cose, per i cani, quella specie di borsetta, Tore ne ha comprato una, l'ha messa al cane e ci ha messo la batteria dentro, e l'antennino l'ha messa nel collare, capito, per trasmettere quando sta viaggiando. Andiamo, Tore è intelligente, Tore ha fatto le scuole alte, ha un destro bianco, vero no? Se non mi vedi dire che cosa? No, non mi posso manco portare, le figura dopo così attacco antennino e batteria. Vai, è meglio nulla. Ma se io quella mattina ero sul camion con mio collega, ho visto uno lontano col cane bianco, e tu, e c'avevi una parola in testa con l'antennina e qualcosa in mano, perché mi dicevo di poter anche portare, e tu eri l'altro giorno. Sì, ma non pensavi che ci arrivavi tu. A chi io non avevo. Cioè, mi dai faccio buttarmelo il telefono appresso, fermo un poco. Oh, mi pare, guarda, mi sembra che tu eri vicino alla ex di Coppo. Alla Conas. Mi pare dove lontano, via una parabola in capo, un coso in mano e il cane appresso. Guarda, mi sembra che tu, forse avevo sbagliato, non lo so, avanti to. Ma avanti, ma chi scusa? Boh, senz'altro, o ti sei sbagliato o è la verità. Vediamo Luca se c'è qualcosa, avanti tu. Ah, io lo aiuto a nessuno. Ah, io l'ho preso come attore, cosa dare il robot a tirare appresso? Sì, vabbè, se magari devi fare qualche prova così, va bene, va appresso. Guarda Luca, io ce l'ho sempre in macchina, che non siamo per nessuno. Se ti domandi, io sono in ascolto la mattina alla sera, però nessuno risponde quando chiamo. Io ho 2000 persone e nessuno va via. Dunque, sono bloccato in macchina e basta. Abita luce, macchina non ne porto neanche, guarda. Ce l'ho buttato in macchina, ha preso neanche nel posto. Avanti, va chi? Ehi, ehi, no, il mio è sempre appresso. In macchina però, cucato. Sta sempre dormendo, sta. Non si vede, domani lo faccio svegliare, domani mezzogiorno lo metto in funzione, a vedere un po'. Tanto che non già, non vede nessuno, vero to? Infatti, cosa me la riga a fare? A farvi dare la giura. Ma rimane più ben me, e posteggiato in chivi e boh. E vabbè, qualcuno può parlare, no? Fai chiamata e qualcuno ti risponde. Ma adesso vediamo un po' di migliorare la situazione, cerchiamo di migliorarla. Oh boh. E beh, oh, Bacchi, tuo geno ha attaccato tutto o no? Non ho capito, no. Tuo geno ha tutto attaccato con la staffa? No, non c'è scesa a prendersela, ancora io non ci salgo a portarla, se lo vuole viene se la prende. Non l'ho sparato, ma sei stanco molto, con quella voce sta facendo, ohia. Andiamo bene, andiamo, avanti Luca. Luca sta mangiando, avanti to. È così. Sì o no? No, e sì, io ormai stasera sono andato in ufficio, ho timbrato e mi sono andato. Mi è stato modulato. Ho detto, questa sera sono passato in ufficio, ho timbrato e me ne sono andato. È stato bene, Bacchi. Nessuno mi ha cercato, no? No, no, no, no, no, nessuno. Solo che il titolare ha detto, il cartellino, io sono a timbrato. No, ehi, basta dire a Manassina che il suo paese è il titolare. C'era qualcuno che voleva entrare con la buonasera, avanti? No, è da poco fa questa scarica, ma lì. Sembra che qualcuno voglia entrare, però non ce la fa. Boh, vabbè, ti vorrei il portoncino aperto, avanti tu. Meglio già rallo. Sa raro che sennò entra a correnti. Lascia aperta, già va bene, lascia aperta. Lo lascia aperto, bellissimo. Andiamo bene. Bobo. Più belli così si muore, Marì. Troppo bene. C'è Maria Figaro, stasera, non sa sfaccia. C'è il Figaro! Io vicino alla stufa, c'è Marco, la più calda. Buonasera, buonasera anche a Bacchizio. E buonasera anche a Luca. Ciao! E c'è Bava, è un mito sì. Ah, canale 5 sicuramente, no? Ma, cosa vuoi fare? Certo. Ma lui, un attimo, ma due che cosa? Beh, Bacchi! Gianmarì, tutto bene? Ehi, ehi, oggi è giornata del campale, ero in campagna e si stava bene, quasi. Per adesso tutto bene, Bacchi. Speriamo che continui bene. Però non è così, dai. Ogni tanto c'è qualche cosetta, però. Rattoppo, gli faccio la parola qui e la tiriamo avanti. Lo sai, bisogna rattoppare e andare. Non si può fare diversamente. Capito? Purtroppo è così, però. Adesso non stanno peggio, per cui siamo tranquilli noi, però sto. Ah sì, buonasera Gianmarì. Ah sì, già è così, sì. Poi, se vuoi giambate, si giambani e anda bene. Oh, signor Marino! Signor Marino. Ma io sei sapendo con un rifocco, un rifocco. Non ti ascolto oggi, non ti ascolto. Magari sei nella tua stanza. Vedo lei che si accende, però modulazione è zero. Comunque, buonasera, ben entrato. Avanti, Bacchi. Io devo essere dietro, signor Marino, perché arrivo a basso. Devo essere con l'antennino. Al calduccio, ho si messo lì nella zona calda, capito? Fa bene, fa bene, fa bene. Avanti, Giovanni. Che caldo è to? Caldo è. Al caldo allora, sì, ecco perché. Come sentivo un po' d'umidità, allora si è messo in caldo. Fa bene, vero Bacchi? A questa età ci vuole il caldo, Gian Mario, se no guai. Oia, se c'è fare tricia. Tone non ne ha bisogno, giovane, Marino, Luca, noi siamo già facendo il terzo gradino. E anche tu. Bacchi, già stiamo andando piano piano, Luca è giovane, lui ancora, deve ammassicare, pare, vero Luca? Se no voglio male grattato. Anche piatti passa a forno pure. Poi ti dici, quando tocca a cuore, con te, quando tocca a bocca è buono a cuore, poi ti dici. Ma chi dirlo? Ma sto detto? Com'è il detto, Giovanni? Ah? Com'è il detto? Quando tocca a bocca è buono a cuore, vuoi dire? A cuore? Che dici? No, a culo, a bocca, a cuore. E ho sbagliato, bisogna bere pure che si può toccare a culo, Tore, va, Marino. E a Tore deve dire, o meno, a Tore. A voi c'è Mario un po' di mal di testa. Poi anch'io ce l'ho leggermente, un microaria, mi sento strano, però voglio riparlare stasera, mi sento proprio strano. Cosa vuoi fare, per carità? Poi intanto viene una. Però se ci accasciamo il piccio, per cui bisogna andare sempre avanti. Tore! Ehi, già sono qua. Luca, per la testa mi qua c'ho la morsa, la metto in mezzo la testa e poi stringiamo e vedi come ti debassa. Quale testa stai dicendo, tu? C'è che voi due sei buoni. No, quale testa dici? Domani ti telefono, ci troviamo e mettiamo quella che vuoi tu. Ma è nata la morsa però me, e trignimmo. Tore, quale testa? Si è una fase biata, biata. Aiuto che c'è, ma signor Marino, avanti signor Marino, che ti sto chiedendo tutti quanti. Io sono più piccolo, ti ho chiesto poc'anzi, quale testa devi cacciare? Perché Luca ne ha due teste, mi. Era più manna, se buone. Se poi era più manna, e ci c'emmo. Lui da sai se la fermi noi, e non lo so io, mi vai da te. Ma come mai soffri questo mal di testa, Luca? Ma ora se non bevi, ma una vita a testa non la cantava il va. Ma che c'è un gurugabo infuso esci, è paghisso. No, e lei va a pigliare tutta sera, che si è infuso un gabbo tutta sera, Luca. Così è lui. Lei va di stasera da infuso. La cervicale, lui è morto, capelli bagnati, a culo nudo, solamente senza sedile. Vero Luca? Ma sei tutto strisciato a Marino. Stasera non lo senti, no? Perché sei tutto dall'altra parte, Gian Maria, è per quello, E non lo senti. Ma dovresti... Non lo so, boh. Anch'io sono dall'altra parte, forse per quello, È quello che... Arriva in mezzo a quel rem, non si capisce ciò che dice, comunque. Non so se lui mi sente a me. Mari, tu lo senti a Gian Maria? No, vi ho detto a poc'anzi che non lo sento. Vedo il legge e basta, no, è buono. Neanche quel reme si sente, figurati. È per quello allora. Andemmo, andemmo, perché vi sopramodulate tutti e due. Anzi, Gian Maria di gas e gheggia a te. Allora, ci sentiamo, ecco, perché magari ci sopramoduliamo, so. È causato perché non ci sentiamo. Parla tu, parla, non stai zitto, rispondi. Ma c'è la ora asciutta, bello bene. Catta, così a far vedere sempre io, no anda. Se prende Luca. Adesso ho detto che vado alla finale, aspetta. Il finale di che cosa? A rinfrescarti la bocca, tu. Se ce l'hai asciutta, bisogna rinfrescartela. Sicuramente mentre nel mal di gola torna. Allora devi utilizzare il gola profondo a torto, Gian Maria, mal di gola, dottore, per mal di gola, sai se mi vuoi, non passate per un ferro. Catta, se passo una passata per un ferro, arrivederci. E cosa mi vuoi vedere? Quella che c'è mia 300 mi vuoi vedere? Da chi? Ma ti passa la cosa, il mal di gola, tutto passa. Gola profonda, sì, dottore. Infatti, dai retta a bacchisi, dottore. Che quella roba fa bene, va molto bene. Ma ci metti, io non so di chi si. Non piace manco a me. Uia. Andiamo bene. Signor Marino. Sei poco delicato. Ah, sei fatto il fine, sei fatto. Vai, sei fatto il piscio, boh, ma ci ho preso. Un bicchierino fa di nulla, anzi ti scende lo sonno manco. Ti scende. Più vero, fa di bene, ti scalda. Un bicchiere, dopo un altro bicchiere si è a posto, ti passa la rigola. Un po' di miele, un po' di miele si è a posto, scusa, vero Battista? E se no c'è un'altra medicina anche, che usavano gli antichi. È la grucca da Nino Costa. Sì, ma ti devo fare la grucca, ti devo fare la catta, andiamo via, andiamo. Già sei poco lontano. Eppure, ma manco i vivi ti curano. Ti danno la medicina giusta, ti fanno la visita e poi ti danno la medicina giusta. Non è così, Giomali? Supposta. Ehi, adesso ti ho sentito, bene pure. Ma più freddo sta ancora? Ne ha fatto 4 gocce, ne ha fatto. Che va di si vedeva, e poi io lo faccio manca mai tanto. Ma chi? Ma Giomali è il mio boss. Ragazzi, io rubinetto è poca, io non posso venire. Attimo, ma ti regge, chiatta. Ma poi c'è, ma domani è poi c'è, vai. Ma chissà che la cosa, che avevo un poco d'eva però, A chi la terra è asciutta. Così, E allora meglio che fozia. No, ci vuole, anche le piante ne godono. Adesso entro in amore e dunque se non c'è un po' d'umidità andiamo male. Allora da sembra fasi fasi, chi lo fasi mai male, quando fasi di albiano fa sempre bene, ma chi? Ma piano piano, mi si che se la succia tutta. E che se la vende piano piano? Io ho avuto a Lucca in cammino. E abbiamo stato l'anca, io me ne sono contento a chi siamo in fondo, infatti ciò che avevi da casa era quasi cioccio. Mari, andiamo a... Marino, non senti a Gian Maria? Non lo sento, no, Bacchi, non lo sento, vedo il lady, ma... Senta lui adesso, è bene pure. Però lui non mi sente, sono con Gombino dietro. Marino. Dimmi Luca. Ma già mi senti così, sì? Sì, bello pulito, è come se a casa mia. Però l'antenna è puntata verso la parte di Gio Maria, Diciamo è puntata dove ho la porta di entrata a casa, dai. Cosa Gio Maria? Ma chi si arrivede proprio direttamente a soltare Bocciari? La parte tua, la parte di Bacchiso, la parte di Zoe. So che Marino è dietro, ma nella parte di dietro, la parte di Graziano, diciamo, là. Io ti sento bene. E Marino, però è ben lontano, che bocca. Io lo sento, magari lui non sente a me, perché sono un gomino, capito? Se si mette la tela grande già lo sento bene, pure mi sente anche. Ore! Dai, io ne approfitto. E me ne vado tutto che mi sacciamenti. Vabbè dai, ci sentiamo domani se tutto va bene, ok ragazzi? Ciao Gian Maria, ciao Bacchisio, ciao Marino e ciao Luca. Statemi bene, sogni d'oro e buona cena a tutti. Ciao a tutti. Ciao Tobe, Luca, non riprende, vai Bacchisio. Ehi, Luca, non ti ho sentito. Ciao Tore, buona serata, buona cena, buon tutto, saluta la signora, a domani se coincide ce la chiacchieriamo ancora. Vai, avanti Luca, ci sei. Luca, assaggia della passaporto, è caldo, no? E mi pare incantato, anch'io, ma che dai, ci sentiamo domani. Saluto Riccardo, ma chi? Sentiamo. Buon proseguimento di serata. A domani, ciao Bacchi, ciao anche a Marino se mi sente, e buonasera anche a Luca. Ehi, ciao Tore, dai, ciao Gio Maria, ciao Bacchisio, ciao Marino, ciao a tutti, anch'io vado a cenare, dai. A domani se Dio vuole, ciao a tutti. Ciao Luca, ben sentito, domani se coincide sono in casa, avanti Bacchi. Ok, bye bye, ciao, ciao Bacchi, salve. Ok, ciao Giovanni, buona serata, buon corretti, saluta la signora, buona cena. A domani se coincide ce la chiacchieriamo. Ciao Luca, buona serata ancora, per te la signora, la signorina, scusa, l'ho usata signora. Ci sentiamo domani. Buonanotte, buona cena, buon tutto. Marino, anche io me ne vado in QRT perché è arrivata l'ora anche per me. Quell'ora arriva X per tutti. Ciao Marino, buona serata, buon questo ancora se ci sono degli amici. Buon ascolto e buon tutto. A domani se coincide ce la chiacchieriamo o ce la vediamo. Bye bye. Ok, ciao Bacchiso, ciao Giovanni, bei saltoni tutti quanti, a domani si coincide. Ciao Bacchiso, in casa ci sentiamo domani. Ciao, ciao, saltoni e ascoltoni, ciao.